Mi sembra che ci sia stato un salto di qualità anche a livello locale nostro bolognese rispetto al discorso dell'introduzione dei gate, quindi insomma dei varchi presidiati che controllano l'accesso ai binari e lo consentono solo a chi ha il biglietto. Questo mi è stato un salto di qualità, in più impastato con una campagna di stampa molto, molto aggressiva, molto fondata sull'equiparazione tra la povertà e il crimine, essenzialmente. Ho in mente un paio di articoli di quest'estate veramente sgradevoli. Tutto ciò viene giustificato con la scusa del terrorismo. Allora, complessivamente la narrazione pubblica sì, su questo. In realtà quello che dice RFI, quello che dice FS non è mai stato questo. Loro sono sempre stati molto attenti a dire che era per l'evasione del biglietto, per i fenomeni di accattonaggio, cioè loro hanno sempre detto che il motivo era un altro, però la narrazione pubblica della stampa e di buona parte della politica attorno a quella vicenda ha invece insistito in maniera molto forte sulla questione del terrorismo, che non c'entra ovviamente assolutamente niente. Non c'è, infatti, anche come si vede appunto dai documenti di FS, si capisce che loro sono i primi a dire che non c'entra niente col terrorismo. Dal tuo reportage però emerge terzo elemento, che non è né la questione del terrorismo né l'evasione del biglietto, che è una sorta di fenomeno di gentrificazione che colpisce anche le stazioni, no? Che diventano luoghi per lo shopping. Sì, questo è assolutamente evidente, questo in fondo è quello che maggiormente volevo raccontare con quel reportage, nel senso che c'è una campagna di stampa sul terrorismo, c'è una decisione di FS dell'autorità che, nei suoi documenti ufficiali non è sul terrorismo ma è sull'evasione del biglietto, eccetera, eccetera, e di fatto però c'è una trasformazione che è quella di un centro commerciale. Questo è molto dichiarato, soprattutto c'è stato anche lì un salto di qualità l'anno scorso con la nascita di GS Retail, grande stazione retail, che è la società privata, completamente privata, che gestirà gli spazi commerciali delle stazioni fino al 2040. Quello costituito un salto di qualità, e le interviste del presidente della società, comunque insomma della persona che è stata fondamentale nella cordata societaria proprietaria di GS Retail, lo ripetono continuamente: il consumatore deve essere a proprio agio ed è quindi consumatore, diventa il consumatore il referente della stazione, non più il viaggiatore e non più assolutamente quell'ampia umanità che ha sempre trovato la stazione un luogo percorribile, frequentabile, un po' più sicuro rispetto alla strada, perché anche i poveri hanno bisogno di sicurezza, anzi ne hanno bisogno loro molto più di quelli che sventolano l'esigenza della sicurezza. Il decreto, poi ora legge Minniti, ha favorito, accelerato questo processo? Sì, assolutamente, tant'è che tutti i soggetti che acriticamente si mettono in coda nel richiedere stazioni sempre più chiuse si appellano tutti al decreto Minniti. Qui a Bologna il discorso che è stato montato in buona parte da articoli di giornale e da anche alcuni parlamentari del PD, però parte, almeno nella sua versione 2017, parte da un comunicato sindacale, e la prima cosa che dice questo comunicato sindacale è: grazie al decreto Minniti possiamo essenzialmente blindare le stazioni, quindi fatelo. La cosa un po' paradossale che io cerco di far notare nell'articolo è che il problema dell'insicurezza del personale viaggiante e del personale di stazione è in buona parte dovuto, almeno secondo alcuni sindacalisti di base che ho sentito, al fatto che è sempre meno questo personale ed è sempre più solo. Quindi l'articolazione rispetto alla blindatura delle stazioni, che in prospettiva sarà senza personale, quindi sarà come una metropolitana essenzialmente, in cui tu entri mostrando il biglietto a una macchina, renderà ancora più solo il personale viaggiante e il personale di stazione. Quindi è una soluzione in cui i sindacati si sono accodati a un pretesto, però appunto quello che propongono è aggraverà il male che segnalano. Quindi di fatto, i poveri anche in questa vicenda sono diventati un capro espiatorio, ad esempio a pochi investimenti sul personale e fenomeni di questo tipo. E soprattutto alla trasformazione del centro commerciale, questa è veramente la cosa che diventa importante e fondamentale. Faccio un esempio nell'articolo, che è quello della chiusura della sala d'attesa a Bologna, che era rimasta una delle poche che rimaneva aperta tutta la notte, invece adesso viene chiusa alle 10. Io vedo in questo orario delle 22 un'identità con gli orari dei negozi e dei bar che ci sono in stazioni, che ugualmente chiudono alle 10. Quindi evidentemente viaggiare, neppure avendo il biglietto, non è più una motivazione valida per stare almeno comodi in stazione. in un'ottica legalitaria ovviamente non condivisibile, come dire, le stazioni erano anche un punto di raccolta di persone con problemi di marginalità sociale. Con questi fenomeni dove finiscono? E questo è lo stesso grande tema del decreto Minniti: vengono espulsi, fatti sparire dagli occhi del cittadino consumatore e vengono espulsi veramente verso le periferie, verso un'ancora maggiore marginalità, verso un'irrecuperabilità rispetto a quelli che possono essere servizi o dovrebbero essere servizi sul territorio. E se tu fai un servizio rivolto alla marginalità sociale e sai che li trovi in un posto, come dire, significativo come la stazione, sai dove intercettarla, sai come intervenire. Se tu le spegli anche da lì, spariscono agli occhi e probabilmente vanno a stare ancora peggio di prima. Io ritengo complessivamente che quelli siano luoghi pubblici, debbano rimanere dei luoghi pubblici. La sicurezza di una stazione è data dal fatto che sia attraversata, sia viva, ci siano magari anche treni di notte, come c'erano fino a pochi anni fa. Tutto questo rende sicuro il suo attraversamento. Blindare, chiudere e telecontrollare tutto non porta alcuna sicurezza, ma porta a una società ancora più spaventata da un lato e arrabbiata, egoista dall'altro.